Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Elisir, pillole per curare le emozioni. La nostra rubrica del sabato mattina, come sempre su Italiana. Io sono Federica Zani del blog latavolaesmeralda.com e oggi voglio darvi dei consigli per curare le vostre emozioni, il corpo fisico, la mente e la parte energetica, in questo momento di paura e panico che la maggior parte delle persone stanno vivendo a causa del coronavirus. Da una parte vi darò dei consigli e dall'altra vi spiegherò come si applica tutto ciò che vi ho insegnato nelle puntate precedenti in momenti di incertezza, come quello che tutti stiamo vivendo adesso. Ma come sempre, prima di iniziare, ci ascoltiamo una bella canzone qua su Italiana, la tua radio sull'isola. Bentornati a Elisir, io sono Federica del blog latavolaesmeralda.com e oggi iniziamo a prenderci cura di noi stessi a 360 gradi per far sì che la paura non ci paralizzi e non ci faccia entrare nel panico. La paura è un programma della mente, quindi un sistema di difesa automatico e inconscio che da un lato ci protegge, però dall'altro ci paralizza e ci fa pensare e fare cose assurde quando si trasforma in panico e in terrore. Quando la mente conscia percepisce che non possiamo tenere sotto controllo una situazione perché non ha dei confini ben definiti, la paura si trasforma in panico e quindi si può reagire in vari modi. C'è chi diventa aggressivo e c'è chi si paralizza. Il cervello va in tilt, entra in modalità sopravvivenza. Il famoso cervello rettiliano di cui vi ho già parlato, che l'unica cosa che può fare è lottare per sopravvivere. Da qui nasce l'assalto ai supermercati come dimostrazione che proprio questa parte del nostro cervello, la più primitiva e istintiva, ci fa attuare facendo cose senza senso. Per questo è importantissimo prenderci cura di noi stessi e curare le nostre emozioni, proprio per affrontare questi momenti utilizzando la resilienza, la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la nostra identità. La miglior cosa che possiamo fare è prenderci cura dei nostri pensieri, visto che è proprio da lì che nascono le emozioni. Quindi il consiglio numero uno, importantissimo e molto efficace, è quello di non passare tutto il giorno guardando la televisione, le notizie, in Facebook, Instagram, WhatsApp. Il fatto di leggere, parlare e ascoltare sempre queste notizie che propagandano e alimentano la paura è proprio quello che vi farà ammalare, anche se non uscite di casa, anche se usate guanti e mascherine. Queste informazioni generano emozioni che entrano direttamente nell'inconscio, che come vi ho spiegato ha il potere di creare la realtà che viviamo. Quindi non serve essere dei geni per capire che il risultato di stare tutto il giorno ascoltando solo notizie negative è ammalarsi. Invece, se iniziamo a usare il nostro cervello in maniera più utile e produttiva, possiamo organizzare la nostra giornata, approfittando per fare quelle attività che aumentano la nostra energia a livello fisico e anche mentale. Questo è importantissimo se vogliamo mantenere alte le difese immunitarie, che sono alla base del nostro cammino per non ammalarci. Per esempio, possiamo iniziare a fare una routine di ginnastica, di stretching, yoga o meditazione, che va molto bene sia per il benessere fisico ma anche per calmare la mente. Ballare, cantare, scrivere, disegnare o fare quelle attività per le quali non abbiamo mai tempo. Pulire la casa, eliminare il superfluo per fare spazio al nuovo. Questo è molto importante a livello energetico. Leggere libri, vedere o ascoltare delle conferenze online, informarci su nuovi argomenti. Sono tantissime le attività che ci aiutano a stare meglio. Ma prima di continuare con altri consigli, stavolta per curare l'organismo da dentro, ci ascoltiamo una bella canzone qua su Italiana. Elisir, io sono Federica del blog latavlaesmeralda.com e continuiamo con questa lista di consigli per promuovere il nostro benessere. L'alimentazione è importantissima per tenere alte le difese immunitarie. Non è certo riempiendoci di carne, farine, dolci e zuccheri che contribuiamo a questo. Il corpo ha bisogno, ora più che mai, di vitamine e sali minerali, che io consiglio comprare in capsule perché sono molto più concentrate. L'aglio è un potentissimo antivirale, lo zenzero è ottimo per raffreddore e influenza, il kefir è ottimo per la flora intestinale, che in momenti di stress si può abbassare e causare malattie. Anche i cibi prebiotici servono a contribuire al benessere dell'organismo e del sistema immunitario. Legumi, avena, frutta secca, specialmente noci, asparagi, sono alcuni prebiotici. Gli oli essenziali che si comprano in erboristeria, ma si trovano anche nelle farmacie, nel reparto naturale, sono molto efficaci. Io personalmente mi curo utilizzando proprio le proprietà delle piante. Il tea tree, chiamato anche albero del tè, è un potente disinfettante contro i batteri. È un antibiotico naturale, indicato per tutte le infezioni delle vie respiratorie. Ravinstara è eccezionale come antivirale e antibatterico. La lavanda calma e tranquillizza le emozioni. L'echinacea è immunostimolante, rafforza il sistema immunitario, è un antivirale e sostiene l'organismo contro gli attacchi infettivi. Utilizzare i prodotti naturali eviterà gli effetti secondari delle medicine tradizionali che, come ben sappiamo, ma forse non tutti lo sanno, fanno più male che bene. Questi accorgimenti sono alla base del nostro kit di emergenza anti-coronavirus. Sembra strano, ma proprio in questo momento, dove siamo obbligati a stare con noi stessi, possiamo scoprire delle nuove opportunità e i nostri talenti nascosti. Una delle scuse numero uno dell'essere umano, come già vi ho detto precedentemente, è il fatto di non avere tempo. Adesso, che abbiamo molto tempo a nostra disposizione, è un'opportunità per conoscerci meglio. Facciamo di tutto per non restare soli con noi stessi e guardarci dentro, e adesso la vita ci obbliga a farlo. Che succede? Chi sta bene approfitterà di questo momento per organizzarsi, creare, studiare, fare tutto ciò che gli piace. Però chi sta male entrerà in uno stato di paura, di ansia, tristezza, solitudine, apatia. Tutto questo, cari miei amici, dipende solo e unicamente dalla nostra mente e dalla nostra gestione emozionale. In questo momento più che mai, tutti i nodi vengono al pettine e siamo chiamati a fare una revisione della nostra vita e dei nostri valori. Tutto questo è una preparazione per quello che avverrà tra qualche anno, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. E come sempre, prima di lasciarvi, con le frasi che oggi ho scelto per voi per ispirarvi, ci ascoltiamo una bella canzone qua su Italiana, la tua radio sull'isola. Anni 60, girano in centro sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Se hai una Vespa special che ti toglie i problemi. Bentornati a Elisir, vi ricordo che potete riascoltare tutte le nostre puntate in versione podcast sul mio sito latablesmeralda.com o sul sito italianamaiorca.com. Oggi, per ispirarvi, ho scelto la famosa frase di Darwin, colui che ha scritto la teoria dell'evoluzione. Non è il più forte della specie quello che sopravvive e nemmeno il più intelligente, ma è quello che si adatta di più al cambio. E come diceva anche il grande cantante Jim Morrison, non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi. Seguitemi sulle reti Facebook, Instagram, YouTube. Io sono la Tabla Esmeralda. Ci risentiamo il prossimo sabato alle 10.30 per una nuova puntata di Elisir qua su Italiana, la tua radio sull'isola. Un bacio a tutti e buon weekend. Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani.